ad alta voce. Arturo Cirillo legge Lev Tolstoi. La buona terra. Mi trovo di nuovo presso il mio amico Chertkov, nel governatorato di Mosca. Sono ospite suo per lo stesso motivo per il quale prima ci incontravamo al confine del governatorato di Orel e per cui un anno fa ero venuto a trovarlo in quello di Mosca. Il motivo è che il confine della fissa dimora di Chertkov è l'intero globo terrestre, eccezion fatta per il governatorato di Tula. Appunto perciò sono in viaggio da un confine all'altro di questo governatorato per incontrar lui. Esco alle 8 per la consueta passeggiata. È una giornata torrida. Dapprima mi incammino per una ruvida strada argillosa davanti alle acace che ormai stanno per prorompere e liberare i loro semi, quindi costeggio un campo di segale che comincia a imbiondire con i suoi splendidi fiordalisi ancora freschi. Sbocco in un maggese nero, arato ormai quasi per intero. A destra c'è un vecchio con gli stivali che ara con un vomere di legno e su un brutto cavallo magro e sento un rabbioso, arcaico spingi con la pronuncia che calca sulla prima sillaba e di rado un «Oh, diavolo!» e poi ancora «Spingi, diavolo!» Mi è venuta voglia di scambiare due chiacchiere con lui, ma quando sono passato davanti ai suoi solchi, lui era già arrivato all'estremo opposto del campo. Vado oltre. Più in là c'è un altro aratore. Questo qui dovrei farcela incontrarlo quando si avvicinerà alla strada e se ci riesco parlerò con lui se si può. Così penso. E per l'appunto ci incontriamo sulla strada. Questo ara con aratro di ferro e con un grosso cavallo baio ed è un giovane di bella corporatura, ben vestito, con tanto di stivali e ricambia affettuosamente il mio saluto. Di Dio ti aiuti! L'aratro prende male sulla strada battuta. Il giovanotto l'attraversa e si ferma. «Come va? È meglio che con il vomere di legno? Come no? È molto più facile così. E lo usi da tanto? No, da poco. Me lo avevano rubato. E come hai fatto a ritrovarlo? L'ho ritrovato. L'aveva rubato uno del villaggio. E che hai fatto? L'hai denunciato? E come no? Perché lo hai denunciato dal momento che l'avevi ritrovato il tuo aratro? Era un ladro, no? E che c'entra? Così lo mettono in galera e là imparerà a rubare peggio di prima. Mi fissa con aria seria e intenta. Evidentemente non si decide a rispondere né con un sì né con un no a quel pensiero per lui nuovo. Un volto fresco, sano, intelligente, coi pinibili lunghi e di nascosto e sopra il labbro superiore e grigi occhi intelligenti. Fece voltare il cavallo per tornare sui suoi passi, ma fermò l'aratro evidentemente perché voleva riprendere fiato e non gli sarebbe dispiaciuto scambiare due parole. Io afferrai i manici dell'aratro e diedi una pacca alla cavalla sudata, ben pasciuta, alta. La cavalla spinse il giogo e io feci qualche passo. Non mi riuscì di trattenere l'aratro, che fece un salto e fermai il cavallo. «No, voi non ce la fate. Solo che ti ho guastato il solco. Fa niente, lo sistemerò io». Fece fermare il cavallo per riprendere quel tratto di terra che avevo mancato, ma non si mise ad arare. «Il sole picchia. Andiamo a sederci un po' a quei cespugli», propose, indicando un boschetto proprio ai margini del campo. attraversammo l'ombra di giovani Betulel. Lui si sedette per terra e io mi fermai di faccia a lui. Tu di che villaggio sei? Di Botvinina. È lontano? Eccolo là, che spunta su quel monticello là. E me lo indicò. Come mai vieni ad arare così lontano da casa tua? Ma questa qua non è terra mia. È di un mujik di qui che mi ha preso a lavorare. E come ti ha preso? Per tutta l'estate? No, mi ha preso per la semina, l'aratura, la concimatura, tutto come si deve. E com'è? Ne ha tanta di terra? Saranno 20 misure da seminare. Però, e il cavallo è tuo? Bella bestia. Già, non c'è male, dice con un placido orgoglio. In effetti la giumenta aveva un piglio, una statura e un'aria sazia, come capita di rado vederne nelle bestie dei contadini. E vivi in casa di qualcuno, a servizio, eh? Porti carri e così via. Ma che, sto a casa mia, sono il capofamiglia, così giovane. Sono rimasto orfano che avevo 7 anni. Mio fratello sta a Mosca, in una fabbrica. Prima, a darmi una mano, c'era mia sorella, anche lei stava in fabbrica. Ma da quando ho compiuto i 14 anni faccio tutto da solo, in tutte le cose. E ho lavorato e ho anche messo da parte qualcosa, disse con tranquilla consapevolezza della sua dignità. Hai moglie? No. E allora chi sbriga le faccende di casa? Mia madre, no? E ce l'hai la mucca? 2 ne ho di mucche. Addirittura. E quanti anni hai? Chiesi io. 18, rispose, e abbozzò un sorriso, avendo capito che mi interessava sapere come avesse fatto lui così giovane a sistemarsi tanto bene, ed era chiaro che gli faceva piacere. Sei giovane parecchio, dissi io. E se succede che ti mandano soldato? Allora parto, disse con la stessa espressione pacata con la quale gli uomini parlano della vecchiaia, della morte e in genere di tutto ciò su cui non vale la pena di ragionare troppo perché è ineluttabile. La nostra conversazione, come son sempre ai nostri tempi le conversazioni con i contadini, andò a parare sulla questione della terra e lui, mentre mi raccontava la sua vita, gli disse che di terra ne aveva poca e che se non avesse lavorato qua a piedi, là a cavallo, non avrebbe avuto nemmeno da mangiare. Ma raccontava tutto ciò con un allegro, gioioso, orgoglioso compiacimento. Ripeté ancora una volta che si era ritrovato capo famiglia a 14 anni e che si era fatto tutto da sé. «Beh, e vodka ne bevi?» Era chiaro che gli spiaceva dire che beveva, ma non voleva neanche mentire. «Bevo», disse piano, stringendosi nelle spalle. «E di leggere e scrivere se capace? Altro che! E allora? Non hai mai letto dei libri su quel che fa il bere?» «No, non ne ho letti. Però lo sai che è meglio non bere affatto. Si sa, se ne cava poco di buono. E allora sarebbe meglio smettere». Tace. Si vede che ha capito e sta riflettendo. Si può, sai, dico io, e sarebbe un gran bene. Ecco, l'altro ieri ero andato a Ivino e appena sono entrato in un cortile, il padrone mi saluta e mi chiama per nome patronimico. Salta fuori che ci eravamo conosciuti 12 anni prima. E Kuzin, lo conosci? Come no? Sergei Timofievich. E gli racconto che con questo Kuzin, 12 anni fa, avevamo fondato un'associazione per l'astinenza dal bere e da allora Kuzin, che prima beveva, aveva smesso del tutto. Ed ecco, adesso Kuzin mi dice che è proprio contento di aver smesso con quella porcheria, dissi io. E si capisce, vive proprio come si deve. Ha una casa sua e la sua azienda. Magari se non smetteva non avrebbe avuto niente. Già, questo è sicuro. Ecco, vedi? Dovresti fare anche tu così. Sei un così bravo giovane, perché devi bere? Se tu stesso dici che non se ne cava nessuna utilità, smetti anche tu e vedrai come sarà bene. Lui continua a tacere e mi guarda con tanto d'occhi. Intanto io mi ritiro su sulla prendere e gli porgo la mano. Sul serio, smetti di bere. Comincia da oggi. Sarebbe proprio una bella cosa. Con mano forte stringe la mia. Ed è chiaro che in questo gesto vede l'invito a promettere. Beh, perché no? Si può fare. dice in modo del tutto inatteso, con aria allegra e decisa. «Vorresti dire che prometti?» chiedo io meravigliato. «E perché no?» «Prometto», risponde lui, annuendo e sorridendo un poco. E dal tono pacato di voce, dall'espressione seria, attenta del viso, si capisce che non è uno scherzo, ma che promette sul serio e che intende sul serio mantenere la promessa. Sarà la vecchiaia, o il fatto che sono malato, o tutte e due le cose insieme, ma sono diventato facile alle lacrime di intenerimento, di gioia. Le parole semplici di quest'uomo dolce, saldo e forte, di un uomo così solitario ed evidentemente così pronto a tutto ciò che è bene, mi toccarono al punto che mi allontanai senza avere la forza di proferir parola. Quando mi fui ripreso, appena dopo qualche passo, mi volsi verso di lui e dissi, gli avevo chiesto prima come si chiamava, «Vada, Alexandre, ogni promessa è debito. Come ho detto, così sarà». Capita raramente di provare un sentimento di gioia più intenso di quello che provai io mentre mi allontanavo da lui. Ho scordato di dire che mentre chiacchieravo con lui, mi ero offerto di dargli fogli contro l'ubriachezza e dei libretti. Uno di questi fogli contro l'ubriachezza, un contadino del villaggio vicino, l'aveva incollato al muro esterno di casa sua e poi una guardia gliel'aveva strappato. Il giovane mi ringraziò e promise che sarebbe passato da me all'ora di pranzo. Invece, all'ora stabilita, non si fece vedere e a me, peccatore che sono, venne il sospetto che la nostra conversazione non avesse contato per lui tanto quanto per me, che lui non avesse affatto bisogno dei libri, che io in definitiva avessi visto in lui ciò che in realtà in lui non c'era affatto. Arrivò, invece, la sera, coperto di sudore per il lavoro e la camminata. Aveva la parte di poi era andato a casa, aveva staccato l'aratro, governato il cavallo, aveva percorso 4 verste per venire da me, tutto scattante, allegro, per prendere i libri. Intanto io sedevo con degli ospiti in una magnifica terrazza che dava proprio sulle aiuole, adorne di grandi vasi in forma d'urna disposti tra cespi di fiori. Ero, insomma, in quel lusso del quale non si può non provare vergogna al cospetto del popolo lavoratore, non appena instauri con esso dei rapporti umani. Gli andai incontro e per prima cosa tornai a domandargli se non avesse cambiato idea. Avrebbe mantenuto la parola data? Una volta di più, con quello stesso sorriso buono, disse «E come no? L'ho detto anche a mia mamma. È contenta e vi manda a ringraziare». Dietro un suo orecchio avevo intravisto un pezzetto di carta. «E fumi?» «Fumo», disse, ed evidentemente si aspettava che avrei cercato di convincerlo ad abbandonare anche il tabacco. Invece non lo feci. Rimase un po' in silenzio e seguendo una strana associazione di idee, associazione suppongo incentrata sul fatto che aveva visto la simpatia che provavo per lui e quindi voleva mettermi a parte di quell'importante evento che doveva verificarsi in autunno, mi disse «Ancora non ve l'ho detto, mi hanno già trovato moglie» e sorrise guardandomi negli occhi con aria interrogativa «E per quest'autunno? Ma guarda un po', che bella cosa! E la sposa di dov'è?» lo disse. «La dote ce l'ha?» «No, ma che dote! È una bella ragazza!» Al che mi venne in mente di fargli quella domanda che mi sta sempre a cuore quando parlo con i bravi giovani del tempo nostro. «Dimmi un po', dissi io, devi scusarmi se ti faccio questa domanda, ma per favore dimmi la verità. Se vuoi non rispondermi, ma se mi rispondi dimmi la verità». Il giovane fermò su di me il suo sguardo pacato, attento. «Perché non dovrei dirla la verità? Hai peccato con le donne?» Senza un attimo di esitazione rispose con semplicità. Me ne scampi Dio, non mi è mai successo. Ecco, molto bene, disse io. Mi rallegro per te. Non c'era altro da dire. Beh, allora adesso ti porto i libri e che Dio ti assista. E ci salutammo. Sì, com'è meravigliosa la terra per la semina. Com'è pronta a riceverla. E che terribile peccato è gettare tra le sue zolle i semi della menzogna, della violenza, dell'ubriachezza, della depravazione. Sì, com'è meravigliosa la terra che vapora e in attesa del seme si ricopre di malerba. Invece noi, che abbiamo la possibilità di restituire a questo popolo almeno una parte di quel che incessantemente li prendiamo, che cosa gli diamo noi? Aeroplani, deputati, case di 30 piani, grammofoni, cinematografi e tutte quelle inutili sciocchezze che noi chiamiamo scienza e arte. E soprattutto l'esempio di una vita vuota, immorale, criminosa. E non sarebbe ancora nulla se in cambio di quello che gli prendiamo gli dessimo solamente esempi inutili, stupidi, cattivi. Ma noi, invece di ripagare almeno in parte il nostro debito inestinguibile, disseminiamo questa terra che è assetata di vera conoscenza, soltanto di spini e rovi. Confondiamo di proposito con i nostri servi fintillanti, come uomini gentili, aperti a tutto ciò che è bene, puri come bimbi. Sì, guai al mondo per le tentazioni, giacché è necessario che vengano le tentazioni, ma guai all'uomo mediante il quale viene la tentazione. Arturo Cirillo ha letto Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.